Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Un po' alla volta si fece strada tra i miei pensieri una leggera rabbia contro me stesso. Perché recriminare sul tema svolto? Ormai l'avevo consegnato, non si può dire che non l'avessi riletto e controllato. Ma sì, avevo fatto un bel tema. Inutile ripensarci. E poi, alla peggio, farò meglio il prossimo. Mi chiamo Giovanni Pace. Sono un ingegnere di 68 anni, abito a Roma, sono sposato, ho due figli che peraltro vivono per conto loro e ho tre nipotini. I don't know. Is there an audience, you think? I mean, is it growing? Is it decreasing? Is it impacted by all these things we talk about? You know, honestly, it's something I never think about as a writer. David era alto quasi 1,90 m e quando era in forma pesava 90 kg. Aveva gli occhi scuri, la voce dolce, un mento da cavernicolo e una bocca adorabile, con le labbra a punta, che era il suo tratto migliore. Camminava con l'andatura di un ex atleta, un movimento ondulatorio che partiva dai talloni, come se ogni fisica fosse un piacere. Era nato a Ithaca, nello stato di New York, il 21 febbraio del 1962. Promosso per tutte le superiori con il massimo dei voti, ha giocato a football, ha giocato a tennis, ha scritto una tesi in filosofia e un romanzo ancora prima di laurearsi. Ha seguito un corso di specializzazione in scrittura creativa, ha pubblicato il romanzo, ha fatto sì che un'intera città di editor e scrittori bercianti, sgomitanti e pronti a gambizzare chiunque, si innamorasse di lui, perdutamente. Ha pubblicato un romanzo di 1,000 pagine, ha ricevuto l'unico premio del paese che si assegna a chi viene riconosciuto un genio. Ha scritto articoli che restituiscono meglio di qualunque altra cosa la sensazione di ciò che significa essere vivi a giorno d'oggi. Ha accettato una cattedra speciale di scrittura creativa presso un'università californiana. Si è sposato, ha pubblicato un altro libro e si è impiccato all'età di 46 anni. Oggi è il 21 di febbraio del 2012, sono le 16:08 e David Foster Wallace avrebbe compiuto 50 anni. Ormai ne ho parlato un sacco di volte, quindi conoscerete questa piccola mania o ossessione che ho per questo scrittore che manca ormai appunto da quasi 4 anni sulla scena della letteratura e in generale nel mondo, direi. Vi ricordo qualcosa che se avete voglia di leggere a proposito di David Foster Wallace vi consiglio di fare, ed è Infinite Jest, per quella quale però bisogna prendersi un anno sabbatico se lavorate. Se siete disoccupati è perfetto, perché sono più di 1,000 pagine scritte fitte, o altrimenti cose più piccole, anche dei piccoli saggi, appunto quelli che David Lipsky, che è l'autore del brano che vi ho appena letto, ha citato dicendo dov'è? Aspetta che lo ritrovo. Ha scritto articoli che restituiscono meglio di qualunque altra cosa la sensazione di ciò che significa essere vivi al giorno d'oggi. Comprate una cosa divertente che non farò mai più, se vi capita, che è la storia di una crociera. Mentre vi ripeto, quello che vi ho letto è tratto da un libro che ha scritto questo giornalista e scrittore americano che si chiama David Lipsky, che è stato con lui per quasi un mese intero seguendolo durante una tournée promozionale dei propri libri. Lui scriveva per Rolling Stone e ne è uscito questo libro che si intitola Come diventare se stessi, e racconta più o meno chi era David Foster Wallace. Ho voluto leggere questa cosa non solo perché oggi David Foster Wallace avrebbe compiuto 50 anni, ma perché oggi casualmente si parla di scrivere, si parla di scrittura e di che cosa, se può servire oppure no la scrittura, e a cosa può servire e a chi, in sostanza. E infatti il titolo della la puntata si intitola Scrivere o no? Ma che titolo orribile, che gliel'ha dato sto titolo? Io gliel'ho dato, infatti. Bonini giustamente dice scrivere o no, ma fortuna che non li dico mai i titoli delle puntate, altrimenti la gente cambierebbe il canale molto prima. 349-238-6666, voi siete qui, @radio24.it, c'è però anche un profilo Facebook che è sempre quello, e un profilo Twitter che è voi siete qui. E il gioco di oggi è questo: se avete di recente scritto qualcosa, ma anche non di recente, anche qualche tempo fa, che sia un racconto, che sia un romanzo, che sia un saggio, qualsiasi cosa abbiate scritto, oggi si gioca al gioco degli incipit. Cioè, mi scrivete via SMS in 140 caratteri, via Twitter nei soliti 140 caratteri, o via Facebook, magari non in 140 caratteri, però insomma state stretti perché è un incipit, le prime 2-3 righe della cosa che avete scritto. Vi ricordo 349-238-6666. 0266666. Devo ringraziare Giovanni, che è l'autore del racconto di oggi, che ha preso un piccolo ricordo che arrivava dal passato, no? Ha deciso di scegliere quello come episodio della sua vita da raccontare, il momento in cui usciva dall'esame di maturità, dal tema esattamente di maturità, e diceva: vabbè, se non è andato bene questo andrà meglio l'altro. Poi a un certo punto si rendeva conto che probabilmente non ci sarebbero stati altri temi e non avrebbe avuto altro modo di scrivere. 349-238-6666. Vi leggerei un paio di incipit che sono arrivati già. Ce l'hai una basettina da darmi, Paolino? Quando vuoi. Ah, ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo? Quando vuoi. Quando vuoi. Voleva. Marina. Mi chiamo Greta e ho 60 anni. Lo definisco il pomeriggio della vita. Se ti sei conservata bene, è un pomeriggio di giugno e di ore di luce ce ne sono tante prima che arrivi la sera e sopraggiunga la notte. Se invece hai scialacquato gli anni della vita come una cicala, potrebbe essere un pomeriggio di novembre, quello in cui alle 17 arriva già il crepuscolo, che tradotto vuol dire che manca poco, davvero poco, al buio. Ve ne leggo un altro, perché sono veramente bellissimi gli incipiti che sono arrivati. Poi non so come proseguono, però gli incipiti sono belli. Carla. Ero seduto ad un tavolino da caffè nel bar appena a destra dell'ingresso dell'ufficio. Tutte le mattine seguivo lo stesso rito. Uscivo da casa alle 6 in punto, prendevo l'auto e andavo alla fermata della metro, quello che andava in centro città. Mi fermavo al giornalaio per comprare il quotidiano e facevo una piccola passeggiata di 10 minuti a piedi. Un altro velocissimo. Questo. Gabriele. Latino riporta i compiti, prendo un gratificante 8. Arte continua a interrogare, neanche questa volta è toccato a me. Poi pranzo al volo e corro subito a casa per prendere la chitarra. Oggi tutti da pit, ma non sarà come le altre volte. Oggi sarà il primo giorno di quartetto. Ce ne sono alcuni che sono delle riflessioni, altre che danno inizio a chissà cosa, altre ancora che non lo so. Però ve ne leggerò altre perché sono veramente splendide. Ma forse... non lo so, ma qualsiasi tre righe iniziali sembrano belle, perché uno si immagina il proprio film, poi il difficile è andare avanti. 349-238-6666, ancora voi siete qui, @radio24.it. Io ringrazio Paolo che mi scrive: è stata bella la puntata di ieri, è piaciuta molto la puntata di ieri. Ci aspettiamo oggi l'intervento di Scagnolari. Purtroppo Scagnolari non l'abbiamo ancora trovato, però Scagnolari, se sei all'ascolto e hai scritto qualcosa, mandaci il tuo incipit. Non solo l'incipit, ma tutto il racconto di Giovanni. Scendevo le scale del liceo scientifico Plinio Signore, via Montebello, Roma. Era il pomeriggio di un primo luglio di molti anni fa e avevo una gran voglia di uscire all'aria aperta e rivedere la luce del sole. Ero intontito. Avevo sperato di sentirmi meglio dopo la consegna del mio compito di italiano, la prima prova scritta dell'esame di maturità. Ma non era stato così. Pensieri, idee nuove, recriminazioni sul lavoro svolto si rincorrevano nel mio cervello. Nel commento a quei versi di Ungaretti forse avevo tralasciato elementi troppo importanti. Ad esempio, perché non avevo pensato di tirar fuori qualche collegamento con altri autori? E poi c'era la fame. Non me ne resi conto subito, ma dalle 7 di mattina non toccavo cibo ed era solo un vago ricordo quella colazione ingurgitata in fretta e furia oltre 8 ore prima. L'orgoglio che iva a sostenere quell'esame, che percepivamo era un momento di cambiamento forte, e l'impegno era notevole per poter superare quell'esame, e l'orgoglio si manifestava anche nel vedere partire delle comitive che con il draio e gli ombrelloni andavano al mare, e noi avevamo quell'impegno nostro e ci isolavamo completamente da loro, ci sentivamo in qualche modo un po' superiori, ecco. Un po' alla volta si fece strada nei miei pensieri una leggera rabbia contro me stesso. Perché recriminare su quel tema? L'avevo consegnato, no? Non si può dire che non l'avessi riletto o controllato. Sì, dai, avevo fatto un bel tema. Inutile ripensarci. E poi alla peggio farò meglio il prossimo. Ero sul pianerottolo del primo piano, solo ad una rampa di scale dall'uscita e dal sole, quando mi fermai di colpo e mi accorsi che non ci sarebbero più stati altri temi. No. Fine. Quello della maturità era l'ultimo che scrivevo. Soprattutto se, come nel mio caso, sei destinato a fare ingegneria. Non era bello pensarlo, ma era così. Provai a rispondere a me stesso che da qualche parte sarebbero arrivate le opportunità di scrivere, no? Se non fossero giunte, le avrei cercate io. Rotolai fuori dal portone, accecato dalla luce e dalla paura di aver scritto veramente la mia ultima riga. Ma avevo troppa fame per prendermela. E non ci pensai più. Da quel giorno di anni ne sono passati 50, e l'opportunità di scrivere c'è stata. Sì, una bella lettera, sempre la stessa, e che suona più o meno così. Egregio signor cliente, siamo veramente lieti di sottoporre alla sua attenzione il nostro studio e la nostra migliore offerta per... E poi altre parole messe insieme per cercare di vendere i nostri prodotti. Il mio lavoro mi è piaciuto perché mi ha permesso di essere in contatto con molte persone, oltre i miei colleghi anche i clienti, di sviluppare anche delle abilità che naturalmente l'università non mi aveva permesso di sviluppare, tipo per esempio avere i contatti con le persone, studiare anche le psicologie delle persone, perché io ho lavorato molto nel settore commerciale e nel marketing. Non mi mancavano le scuse. Dicevo a me stesso che non avevo avuto il tempo di scrivere per via della carriera, del matrimonio, dei figli. Ma non era vero niente. La verità è stata un'altra. È che mi ha sempre dato fastidio guardare l'abisso che c'è tra i miei enfatici temi del liceo e l'uso che invece mi è toccato fare delle parole, adeguandomi al vivere quotidiano. Che alla fine le considera soltanto mezzi per nascondere o per ingannare, non per esprimere idee, men che mai sentimenti. Questo mi ha sempre messo una certa angoscia, una sottile malinconia, una delusione che mi ha impedito di riprendere a scrivere per il piacere di scrivere. Le storie e i personaggi non mi sarebbero mancati, anzi, col pedigree dell'età, si sono fatti più numerosi e coinvolgenti, ma anche insistenti, quasi fastidiosi. Vogliono a tutti i costi finire sulla carta. I miei figli sono diventati grandi e non sono più in casa. Restano i nipotini a rallegrare le mie giornate. Li ho ascoltati di nascosto l'altra sera, mentre con i loro pupazzi stavano inventando una storia complicata e assurda. E mi sono detto, se lo fanno loro, lo posso fare anch'io. Così ho preso l'abitudine di ritagliarmi in un angolo della casa uno spazio dove prendo la mia penna stilografica e do voce ai miei piccoli demoni personali. David Foster Wallace, Emilio Salgari, Ernest Hemingway, Yukio Mishima, Cesare Pavese, Virginia Woolf. C'è una cosa che lega queste persone: il fatto che siano tutti degli scrittori giganteschi, pieni di fantasia e di talento, praticamente dei monumenti delle proprie epoche e delle proprie lingue. Ma anche il fatto che tutti quanti si sono suicidati, tutti si sono tolti la vita. Scrivere in maniera professionale è un lavoro. È un lavoro che immagino ti costringa all'introspezione, no? Devi star lì e ragionare su quello che scrivi. Non puoi mentire a te stesso, ad esempio. Non puoi delegare le colpe degli insuccessi e nemmeno sfogarti con i colleghi. Io non potrei vivere facendo questo mestiere perché non ne sono capace. Ma per una persona che la sua vita ce l'ha, a prescindere, no? Per chi fa un lavoro normale o per chi non ce l'ha anche, o comunque chiunque non abbia intenzione di scrivere per vivere, inventare delle storie e metterle su carta è un atto creativo perfetto. Non devi studiare, non devi studiare troppo, perché in teoria l'hai già fatto alla scuola, però comunque non devi studiare come con la musica o come con la danza. Puoi farlo in ogni momento, basta che tu abbia un blocco, una penna o un computer, meglio. Puoi sentirti padre dei personaggi che hai concepito, puoi fargli fare quello che vuoi, puoi anche scaricare su di loro le tue frustrazioni e maltrattare i cattivi, ad esempio. Puoi far finta che il mondo sia migliore di quello che è. Oppure puoi creare dei personaggi mostruosi per esorcizzare la paura di loro e la paura di quella parte cattiva che abbiamo tutti. E usare la scrittura un po' come una pattumiera, dove accettare le cose brutte e i rifiuti. E rialzando la testa dalle pagine, piena di quei demoni, ti senti quasi liberato. Ci sono persone che giurano di non avere fantasia e che non saprebbero come fare, quindi non incominciano nemmeno. Io non posso giurarci, ma mi pare che sia un po' come quando qualcuno rimane incinta, però ha paura di non sapere come si fa a fare la mamma o il papà. Sono cose che non puoi prevedere prima. Devi provarci. E di solito è sempre diverso da come te lo immaginavi. Scrivere funziona anche per loro, e se non hai fantasia c'è sempre un serbatoio infinito di storie o di emozioni da raccontare, no? Che è il quotidiano, che è la tua vita. Io ho sempre avuto questo pallino di raccontare le storie e spesso mi sono accorto che quelle che mi davano più soddisfazione erano quelle in cui, nascosti tra le righe, o nemmeno troppo nascoste tra le righe. C'erano dei fatti che mi erano realmente accaduti, delle persone che avevo conosciuto, dei momenti che avevo vissuto. E scriverle mi sembrava utile per rielaborare, per dare forma a situazioni che al momento mi sembravano incomprensibili. È per quello che penso che sia utile tenere un diario. È un esercizio di chiarezza per definire i contorni della nostra vita. Ed è meglio che guardare i cassetti pieni di album fotografici, perché scrivendo si possono aggiungere le emozioni, i momenti che non sono stati impressi sulla pellicola, i desideri, le frustrazioni e anche della fiction. Io non sono un maniaco particolare dell'ordine, non credo che tutto debba avere il proprio posto, il posto giusto, ma la soddisfazione di ricordare qualcosa che ho fatto e collocarlo in un percorso mi rende un po' più sicuro. Quantomeno mi aiuta a capire. Per questo il mio diario è il miglior psicologo che io possa avere e sicuramente il più conveniente. E se poi quello che leggo non mi piace, c'è un magico gesto che funziona sempre, ed è strappare la pagina, fare una bella palla e provare a fare canestro nel cestino. Paperback writer. Truman, che immagino sia un nome finto, non mi scrive l'incipit, mi scrive: io scrivo su dei fogli di carta sulla porta di camera mia, mi piace stare in piedi quando scrivo. Guarda, anche Philip Roth scrive in piedi, però perché ha problemi di schiena, adesso non so, magari questo può esserti d'aiuto. Margherita invece, sempre sul metodo, fumo per cercare nuove immagini e che poi non scrivo perché mi addormento perché ho fumato. Sì, Margherita, di solito succede quella cosa lì con qualche tipo di sostanza, che grosso modo ti addormenti, più o meno. 349-238-6666, non so se abbia un metodo, però nel suo racconto Giovanni dice di avere quantomeno un posto dove va a scrivere. Pronto Giovanni? Sì, ciao, come stai? Ciao, sto bene. Senti, sei in casa in questo momento? Sono in casa, sì. Senti, mi dici qual è questo angolino della casa dove vai a scrivere? Ma all'angolo della casa, al di là di quello che io scrivo nel racconto, che immagino di avere una penna xilografica, in realtà è l'angolo dove c'è il mio PC e dove naturalmente riesco a scrivere qualcosa. Chiudo la porta a quel punto e quindi ho la stanza tutta per me e mi metto a scrivere al PC. E tua moglie, tu hai una moglie, immagino, sei sposato. Sì, sì, certo. E lei sa che quando la porta è chiusa non ti deve disturbare, oppure entra? L'avverto. No, l'avverto. L'avverto. Sì, guarda, adesso io devo fare qualche cosa, mi chiudo l'avverto. La porta e se, mi, guarda, mi ricordo un po' l'immagine di Shining, quando c'è Jack Nicholson che scrive e non vuole essere disturbato dalla moglie, che poi scopre quello che scrive in continuazione. Senti Giovanni, tu a un certo punto nel racconto dici: io ero destinato a fare ingegneria. Sì. Che cosa vuol dire ero destinato? Nel senso che avevi deciso tu o la sensazione era che fosse meglio fare una materia di quel tipo? No, guarda, a quell'epoca specialmente, forse anche oggi, ma a quell'epoca chi faceva il liceo scientifico era quasi obbligatorio, da quello che facevano tutti, diciamo, era un po' una moda, quella di prendere poi ingegneria. Qualcuno prendeva qualche altra facoltà tecnica. Assolutamente nessuno, che almeno quelli che io ho conosciuto, hanno preso una via letteraria umanistica. Umanistica, tra l'altro. Giovanni, scusami se ti interrompo, ma tu hai una voce che è meravigliosamente radiofonica, ma radiofonica quasi anni 50, sembra sembra la voce dei documentari dell'Istituto Luce. Sì, guarda, tu hai mai fatto nulla di radiofonico, mai fatto speakeraggio, niente? No, è proprio una dote naturale. Senti, un'altra, e poi purtroppo in breve ti devo salutare. Condividi quello che scrivi? Cioè, lo leggi a qualcuno, lo leggi a tua moglie? Sì, lo leggo a mia moglie. La prima persona a cui leggo è mia moglie, perché io poi ho scritto anche qualche altra cosa, ma diciamo che ho cominciato a scrivere, come dico nel racconto, dopo che ho terminato di lavorare. Da quando sei in pensione, sì, in pratica. Da quando sono in pensione, sì. Senti, hai un metodo particolare, Giovanni? Cioè, oltre a chiuderti nella stanza, metterti al computer, fai, che so io, qualcosa, ad esempio una roba che inizi a fare per cominciare a scrivere, oppure ti siedi e accendi il computer? Ma guarda, quando io accendo il computer ho già qualche cosa in mente di ben preciso. Perché come tu accennavi, ti ho ascoltato fino a poco fa, succede nella vita di tutti i giorni, che ti vengono in mente e vengono lì a sollecitarti dei personaggi che hanno delle storie, che poi non si sa bene molto spesso da dove vengono. Certo. Vengono sicuramente da qualche cosa che abbiamo vissuto, io questo non lo so. E l'idea è quella di provare a dargli forma. È difficile. Certo, certo. Allora, sì, sono loro stessi, diciamo, che ti sollecitano a mettere qualche cosa di scritto. Adesso, senza voler fare dire qualcosa che può far ridere, ma è Pirandello nella prefazione. Stiamo altissimi, Giovanni, proprio. Sì, ma voglio dire, la tecnica è quella. Certo. Guarda, Giovanni, io purtroppo devo dare la linea alla borsa. Dimmi solo una cosa, però. Dimmi qual è l'ultima cosa che hai scritto, che storia è? Dunque, l'ultima cosa che ho scritto è una storia che riguarda il 150° anniversario dell'Unità d'Italia. Ok, sì. Giovanni, guarda, mi spiace, ma devo dare la linea alla borsa. Io però ti ringrazio per il racconto e per la chiacchierata. Grazie a te. E in bocca al lupo per gli iscritti. Ciao Giovanni, grazie. Ciao. Ciao, buona giornata. Oggi mi rode proprio, mi scrive non so chi, perché anche io, come tutti, ho iniziato un libro, ma non ho sotto mano l'incipit per potertelo spedire. Adesso la borsa, e poi voi siete qui. Le parole sono importanti! Come parla! Voi siete qui. La foto che Giovanni ci ha mandato lo racconta esattamente come viene disegnato dalla sua voce. Giovanni è un signore distinto, con i capelli bianchi e corti, che nella foto sta seduto, con le mani in grembo, incrociate, indossa una camicia elegante, però di quelle casual estive, perché è in maniche corte, ed è seduto sotto quelle verande delle case che si affittano vicino al mare o che si possiedono magari vicino al mare. Ci sono degli oleandri alle sue spalle e sul tavolino davanti a lui ha aperto, anche se non si capisce il perché, un atlante stradale. 349-238-6666 oppure io sono qui, perdonatemi, Matteo Caccia, io sono qui, è il profilo Facebook su cui continuano ad arrivare gli incipit delle storie, chiaramente non li possono leggere tutti, ma continuate a farlo. Intanto Tiziano sta ritwittando su Twitter i tweet, ho usato la parola tweet 4 volte negli ultimi 10 secondi, comunque sta caricando su Twitter tutti gli sms che stanno arrivando. Giulia dice che scrive un sacco di storie per la sua nipotina, Luana addirittura posta l'intro del suo secondo libro, neanche del primo, del suo secondo. E poi c'era Walter, il commento di Walter mi piace perché è sempre un po' fuori contesto. Yukio Mishima, urca, quanto mi aveva preso brutto da adolescente, e poi dice che non sono normale. Walter, a leggere il tuo messaggio un po' anch'io lo direi, però magari integralo e faccelo capire. Lorenzo, ho scritto un saggio breve sul tempo, di come passa il tempo e noi non ce ne accorgiamo. Lorenzo, mettiti in coda però, perché sta roba qui. 349-238-6666. Una delle cose che mi preme di più quando si parla di lavori realmente artistici o creativi, come la scrittura, è quanto le persone che lo fanno si creano un metodo, no? Quindi quando mi è capitato, per motivi personali o meno, di incontrare degli scrittori veri, la prima cosa che gli chiedo è: ma tu quanto scrivi? Cioè, cosa fai per scrivere? Ti metti lì come se fossi un impiegato? Nel senso, da un punto di vista dell'orario proprio, cioè che ti metti la mattina e il pomeriggio e scrivi, oppure è un metodo, vai a correre, ti affatichi. Per esempio Murakami è uno scrittore che deve per forza correre prima di mettersi a scrivere perché è un maratoneta. Ce ne sono altri, ho conosciuto uno scrittore tedesco che scriveva una pagina al giorno fisso, altrimenti non andava a dormire. E parlando di questa cosa e parlando di questa puntata, Tiziano mi ha fatto conoscere un libricino meraviglioso che è scritto da Ray Bradbury, che è quello di Fahrenheit 451, che citare Fahrenheit 451 alle 4:30 del pomeriggio su un'altra radio che non sia Radio 3 fa quasi effetto. Comunque si intitola Lo Zen nell'arte della scrittura, sottotitolo Libera il genio creativo che è in te. È un libricino pubblicato da Derive a Prodi, in cui lui racconta di fatto come faceva a scrivere, e racconta un metodo, che è un metodo straordinario, che è il metodo della lista. Cioè lui si appuntava una lunga lista di parole e poi, riguardando questa lista, ne nasceva qualcosa, un racconto, una storia, proprio partendo da queste parole. E c'è un passaggio meraviglioso in cui lui parla di una parola che si trovava in una lista, nella sua lista, da 50 anni e che ci è rimasta dal 26 all'86, di più, 60 anni. 86, 26, e quella lista, appunto, l'aveva scritta quando era praticamente un ragazzino e l'ha ripresa in età adulta, e ne è uscito un racconto, e quel racconto è servito per esorcizzare una grande paura. Il nome di quella lista era il nome La Cosa, e il racconto è questo qui. uno dei nomi della mia lista, quando ero al liceo, era La Cosa. O meglio, La Cosa in cima alle scale. Quando ero un bambino, a casa mia c'era solo un bagno, su per le scale. Dovevi salire al buio fino a metà strada per trovare l'interruttore e accendere la luce. Tentai di convincere mio padre a tenere la luce accesa tutta la notte, ma era troppo costoso e la luce restava spenta. Intorno alle 2 o alle 3 di notte mi poteva succedere di dover andare in bagno. Potevo restare a letto per mezz'ora o giù di lì, lacerato tra il disperato bisogno di sollievo e quello che sapevo mi stava aspettando nel locale buio che conduceva alla soffitta. Alla fine, costretto dalla sofferenza, avrei attraversato la sala da pranzo fino al locale, pensando di correre velocemente, salire in fretta, accendere, ma qualsiasi cosa tu faccia, non guardare in su. Se guardi su, prima di aver acceso la luce, sarà là. La cosa, la terribile cosa, sarà là, che aspetta in cima alle scale. E allora correvo, salivo, ma sempre, non potevo farci niente, sempre, all'ultimo momento, sbattevo gli occhi e fissavo l'orribile oscurità. Ed era sempre là. E gridavo e cadevo giù per le scale, svegliando i miei genitori. Mio padre imprecava e si girava nel letto, chiedendosi da dove gli era venuto un figlio del genere. Mia mamma si alzava, mi trovava in un mucchio confuso di oggetti in sala e saliva ad accendere la luce. Aspettava che salissi in bagno e che tornassi indietro per baciare la mia faccia solcata dalle lacrime e riportare a letto il mio corpo terrorizzato. La sera dopo, e la sera dopo, e la sera dopo ancora, succedeva la stessa cosa. Fuori di testa per le mie isterie, mio padre tirò fuori il vecchio pitale e lo mise sotto il mio letto. Però non fui mai curato. La cosa rimaneva sempre là. Solo quando mi trasferii a Ovest, a 13 anni, mi liberai di questa paura. Ecco, che cosa ho fatto recentemente a proposito di quest'incubo? Beh, adesso, molto tardi di notte, la cosa è in cima alle scale e sta ancora aspettando. E dal 1926 a oggi, cioè l'estate del 1986, è una bella attesa. Alla fine però, sogguardando la mia lista, sempre leale, ho battuto il nome su un foglio a parte, e ci ho aggiunto The Stairs, le scale. E ho alla fine affrontato la salita al buio, e ho affrontato il freddo artico tenuto da parte per 60 anni, aspettando che mi si chiedesse di scendere attraverso i miei polpastrelli ghiacciati e fino al vostro flusso sanguigno. La storia associata alla memoria l'ho finita questa settimana, proprio mentre scrivevo questo saggio. Ti lascio adesso in cima alle tue scale, a 12:30, con un taccuino, una penna e una lista da fare. Evoca i nomi, allerta il tuo io segreto, senti l'oscurità. La tua cosa è la che aspetta, nelle nebbie della soffitta. Se parli piano e scrivi tutte le vecchie parole che dai tuoi nervi vogliono trasferirsi sulla pagina, la tua cosa, in cima alle tue scale, nella tua notte, potrebbe venir giù. I'll climb to the top and cast a spell your way. Now you won't know, but you'll wanna stay. Come, come closer and I'll lead the way. Iniziato con una voce nella testa, una voce di donna. Per qualche anno abbiamo lottato, ma in silenzio. Poi tutto è cambiato in un attimo. Marco, questo era l'incipit di qualcosa che non so cosa sia, scritto da Marco. E poi ancora, Italo Svevo, nella coscienza di Zeno, definiva lo scrivere una misura di igiene da fare ogni sera. Franco, grazie a Franco, grazie a Paolino Corleoni, a Tiziano Bonini, a Margherita Ina, anche se non c'è con noi oggi, e a Stefano D'Andrea. La storia di oggi era la storia di Giovanni e parlava di scrivere. Quella di domani è la storia di Luca e parla di autostop. Una volta scesa la nebbia, le strade si svuotarono completamente. Ci rendemmo conto che non c'era un mezzo per tornare a casa. L'ultima corriera era partita da un pezzo. Ci incamminammo sulla via di casa attraverso la campagna e quando dal buio nebbioso scorgevamo i fari di una macchina, esponevamo il pollice, tentando di chiedere un passaggio.